Io vedo come un altro personaggio che finora non abbiamo sentito. Il nostro fonico! C'è chi mi chiama 24 tasti, io mi chiamo Franky, mi chiamo Blasco, mi chiama Facco, non so come mi chiamo. Io non ci sto dietro a questo ritmo, oggi c'è pubblico zero a casa mia. Pubblico zero di solito viene a casa mia a registrare qualcosa, ma... arrivano, ma no, no, mi smettono di sentire. Si può spiegare un attimo il suo nomignolo? Sì, 24 tasti è derivato dai canali del mixer. Dai canali del mixer che lui non sa usare completamente. Se vedo un po', poi sono strani. No! Strani!